Quando sono le 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora voglio salutare il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, ascoltatori. Anche lei è d'accordo col ministro Maroni che parla di tentato omicidio per le violenze in Valsusa? Guardi, perfino su questo si è fatto polemica. È ovvio che la qualificazione giuridica del fatto spetta ai magistrati, ma è altrettanto ovvio che il Ministro dell'Interno ha il sacrosanto diritto di sottolineare la gravità di quello che è successo in sé e anche per comparazione con quello che è accaduto in un passato recente e meno recente, quando episodi di grave violenza connessi con manifestazioni di piazza o a latere rispetto alla realizzazione di grandi opere, poi sul fronte giudiziario hanno avuto una risposta assolutamente inadeguata. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello dei disordini scoppiati nel cuore di Roma in coincidenza del voto di fiducia il 14 dicembre dello scorso anno. Però i valsusini dicono altro che Black Bloc, non esistevano, eravamo noi valligiani a protestare. Forse dovrebbero rendersi un po' di più conto di quanto siano stati strumentalizzati e di quanto una protesta discutibile come ogni forma di protesta ma in sé legittima si sia trasformata invece nel pretesto per l'aggressione e un'aggressione che ha avuto le modalità che tutti hanno potuto constatare, quasi 200 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri feriti, non sono uno scherzo. Dicevo, dovrebbero rendersi conto della qualità, del peso, della qualità di questa strumentalizzazione che ha visto impegnati in prima fila centinaia e centinaia di violenti in cerca di pretesto. Aspetta i magistrati poi decidere. Lei che è anche magistrato, secondo lei c'è da questo punto di vista il rischio che, o il timore da parte vostra, che poi non vengano mantenute queste accuse? Ma guardi, io ricordo che in uno stato di diritto la polizia giudiziaria raccoglie gli elementi, la magistratura inquirente formula le accuse e il giudice poi le sanziona. Un dato è certo, quello che è accaduto è gravissimo e quando accade qualcosa del genere non ci deve essere soltanto una risposta in termini di denuncia, ma anche in termini di sanzione. Mi auguro che ciò accada senza che si ripetano episodi di lassismo giudiziario che ci sono stati in un recente passato. C'è nello specifico una persona fermata che però lancia accuse pesanti alla polizia, parla di pestaggi, di umiliazioni una volta che l'arresto, o il fermo meglio, era già stato eseguito. Le pare possibile? Lei come risponde? Perché le accuse sono molto pesanti. Io rispondo che non si fanno processi paralleli e che il bollettino medico è inconfutabilmente in danno delle forze di polizia. Secondo lei non c'è stata anche una sottovalutazione, per esempio, nel dialogo con le comunità locali? Il dialogo con le comunità locali c'è stato, è ovvio che è sbagliato scaricarlo sulle forze di polizia. La Digos, gli uffici che si occupano di prevenzione della violenza a sfondo politico, svolge una funzione importante, ma è una funzione che si colloca a distanza di poche settimane, di pochi giorni dai fatti. La prevenzione più ampia deve essere svolta da tutte le istituzioni e credo sia profondamente sbagliato scaricare ogni questione sulle forze di polizia, sia dal punto di vista dell'intervento diretto, sia dal punto di vista dell'attività di prevenzione. Da oggi su Libero Giampaolo Pansa dice: se reagisse la polizia, se reagissero le forze dell'ordine, lei teme che in situazioni del genere ci possa essere anche una reazione appunto da parte delle forze dell'ordine? Esasperati. Da quando vi è stata l'esperienza del G8 a Genova, prima ancora, ma vi è stato un affinamento nel lavoro di formazione, di preparazione delle forze di polizia, ci sono dei corsi mirati che puntano a non solo a contenere le violenze ma anche a evitare le reazioni. Tutto questo ha elevato gli standard di professionalità delle forze di polizia, devo dire alla luce del bollettino medico ha elevato però anche la capacità di sopportazione e le lesioni che gli stessi poliziotti subiscono. Abbiamo anche rischiato addirittura che ci fosse un morto, voglio dire, domenica. Ma guardi, quando si lancia l'armoniaca, le molotov, gli esplosivi, i bulloni, siamo nelle mani della provvidenza più del solito. Quindi insomma c'è stato questo rischio, è stata solo una questione di fortunata coincidenza che non ci sia capitato. No, io credo che tutti dobbiamo porci il problema di come evitare che rischi del genere si pongano, non fare commentatori esposti. Ci sono forze politiche che ha trovato ambigue su questa, sui fatti avvenuti? Le dichiarazioni di Grillo si commentano da sé e non sono certamente ridimensionabili dall'essersi reso conto successivamente di aver esagerato, e le dichiarazioni di alcuni leader della sinistra, non parlo ovviamente del PD ma di altre formazioni politiche, perlomeno in una fase iniziale non hanno avuto quella durezza di condanna che sarebbe stata indispensabile. Ma a chi si riferisce? Vendola? Certo. Non le piace la retromarcia di Grillo? No, dico soltanto che quando si contribuisce ad aizzare una forma violenta di protesta, si definisce eroi i protagonisti di quella modalità di protesta, non della protesta in sé, e poi dopo sono un po' ipocrita nel momento in cui ci si rende conto che si è esagerato senza la retromarcia. Vabbè, intanto io la ringrazio, sottosegretario, per essere stato con noi, Alfredo Mantovano, il sottosegretario agli interni. Ci fermiamo qui per la pubblicità e il meteo, dopodiché parliamo nel nostro sondaggio di che cosa? Parliamo della diatriba che c'è stata e che c'è tra Michele Santoro ed Enrico Mentana. La questione è la libertà di stampa, il concetto di libertà di stampa. Dopo che Santoro non ha firmato per la 7, ha detto non ho firmato per la 7 perché ci sono state pressioni del governo, del premier, il conflitto di interessi. Ha detto a Mentana: tu sei diversamente libero, tu non ti schieri come faccio io contro il potere. E Mentana ha replicato: non conosco il concetto di diversamente libero. Libertà di stampa oppure no? Mentana o Santoro, con chi state in questa diatriba? Vi chiediamo di schierarvi. 24 mattino. Si sono sfidati a colpi di lettere, possiamo dire così, sul tema e sul concetto di libertà di stampa, di libertà di essere giornalisti indipendenti rispetto ai poteri economici, ai poteri politici, al potere editoriale. Enrico Mentana e Michele Santoro li abbiamo messi in questa sorta di duello rusticano, no, virtuale, nel nostro sondaggio di oggi. Da che parte state? Con chi state? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. I fatti: Michele Santoro non firma per la 7, accusa in maniera esplicita la questione è il conflitto di interessi, lo fa in un'intervista sul Fatto Quotidiano, dice il problema è quello, c'è stato un intervento del governo sull'editore, su Telecom, perché io non andassi lì. Mentana dice, che è il direttore di La 7, Mentana dice non è vero, non è così, e quindi poi le accuse. Michele Santoro dice: io e te, caro Mentana, siamo diversamente liberi, tu non ti sei mai incatenato per la libertà di informazione, hai un differente rapporto col potere economico, politico, editoriale. La risposta di Mentana: non so cosa sia il concetto di diversamente libero, io faccio un giornale giudicato dagli ascoltatori, non ho mai fatto una marchetta, come si chiama in vita, nel gergo, con nessuno, non chiamo i politici, non voto, non vengo chiamato da loro, insomma si esercitano sul concetto di libertà di stampa. Oggi Giuliano Ferrara ne parla di questa diatriba in prima pagina del Foglio e dice: Ferrara, il limite della categoria nostra, i giornalisti, è questa, siamo in quanto professionisti del lavoro tutt'altro che indipendenti, siamo dipendenti a contratto, lavoriamo in una società di mercato aperta in cui decide in ultima istanza chi edita un giornale e rischia il suo capitale, e quella del direttore, del conduttore, dei redattori e collaboratori è una delega e non una signoria. Ne vogliamo discutere di libertà di stampa, se volete, di conflitto di interessi, e oggi i giornali, anche per questa cosa della manovra, danno e offrono spunto, con Antonio Padellaro, il direttore del Fatto. Buongiorno e ben ritrovato, Padellaro. Buongiorno. così come Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Buongiorno, ben ritrovati a entrambi. Buongiorno. Senta Sallusti, allora, lei è notorio per dire che la libertà di stampa, questa più o meno suona così, non esiste, nel senso l'indipendenza del giornalista. Esiste o no? Michele Santoro ha ragione a dire che lui è più libero di Mentana o no? No, tra l'altro mi sembra una polemica che sta un po' sfociando nel ridicolo, mi sembra un po' una lite tra due prime donne. Io credo che abbia ragione Ferrara, la libertà assoluta non esiste, si è liberi di lavorare al servizio di qualcuno, al servizio nel senso si è retribuiti e pagati da qualcuno. Padellaro in questo momento ha la fortuna, è uno dei pochi fortunati che sta lavorando per se stesso e quindi, però attenzione, è dipendente di se stesso, che è un bel vantaggio, ma comunque rispetto al lettore, il lettore, come dire, subirà l'influsso dell'editore Padellaro, il quale editore Padellaro comanderà la mano del direttore Padellaro. Cioè, ci mancherebbe, è dipendente delle sue idee, almeno questo, non si può scindere dalle proprie idee, dal proprio cervello, Padellaro. Non so se su questo lei è uno, si sente un privilegiato, un fortunato, perché il Fatto Quotidiano non ha un editore, nel senso un editore che risponda a dei poteri economici o politici. Sì, sicuramente mi sento un privilegiato. Però appunto insieme a molti altri colleghi abbiamo deciso di regalarci questo privilegio e ha funzionato, perché sembra retorica ma nel nostro caso è realtà, e i padroni del giornale sono i lettori, nel senso che se i lettori non ci comprano noi chiudiamo, se i lettori ci comprano come ci stanno comprando noi abbiamo successo. Quindi io credo che si possa uscire da questo, da quello che Ferrara e Sallusti hanno ben evidenziato, da questa morsa, da questa tenaglia per cui il giornalista deve comunque rispondere a un'autorità, a un potere superiore. No, si può anche rispondere ai propri lettori, e i propri lettori, guardi, che non sono teneri, perché poi pretendono, giustamente, criticano. Io chiudo, passo molto tempo della mia giornata a rispondere alle lettere dei lettori, che non sono sempre lettere favorevoli. Ma voglio dire, ma lei si potrebbe dire: io sono più libero perché non ho un editore rispetto, che ne so, ad Alessandro Sallusti, perché editore, il suo editore è Paolo Berlusconi? No, questo non mi permetterei mai di dirlo, non mi sembra un modo giusto. Io penso che poi i giornali abbiano delle loro linee editoriali e linee politiche che rispondono anche al pensiero dei direttori e dei giornalisti. È evidente che Sallusti dirige un giornale che è un giornale filo governativo, un giornale molto vicino al governo, che difende le scelte del governo, mi permetto di dire certe volte eccessivamente. Però posso dire una cosa, io preferisco mille volte delle posizioni sia pure faziose, tra virgolette, ma nette, chiare, piuttosto che quelle posizioni, chiamiamole così, cerchiobottiste, grigie, dove non si sa mai come la pensa chi scrive. Quindi io preferisco confrontarmi anche duramente certe volte con Sallusti, piuttosto che con certe gelatine che non si sa come la pensa. Oggi sempre Giuliano Ferrara sul Foglio scrive: la trasparenza è nell'essere chiari sul proprio punto di vista politico e culturale, il lettore ha un solo diritto vero: sapere come la pensa o come parteggia chi scrive o parla lui. Questo è il senso di libertà per Giuliano Ferrara, credo che Sallusti sottoscriva. Però Sallusti, qui c'è la questione anche dalla quale stiamo un po' sfuggendo, Mentana Santoro, non per parlare di queste che insomma diatriba tra cosiddette prime donne. Tra l'altro il 67% dei nostri ascoltatori, lo devo aggiornare, parteggia, dice, sta per Mentana in questa diatriba. Ma qui Santoro ha fatto un'accusa ben precisa, Sallusti, cioè dire: io non ho firmato per la 7 perché c'è stato un intervento del governo. Questo, e tra l'altro il Fatto Quotidiano ha sposato questa tesi, ha scritto articoli a riguardo su pressioni, cose spuntate nella manovra che potevano danneggiare Telecom, l'editore di la 7. E insomma, Sallusti, qui l'accusa di Santoro è specifica sulla questione della libertà di stampa. A me sembra di essere ogni tanto in di doni di buon costume che fanno sentire le reginelle. Le logiche del potere sono logiche a tratti perverse, a tratti brutte, non per questo illegali. Il potere ha tutto il diritto di difendersi da dei contropoteri. Allora ogni tanto si cade dalle nuvole, si dice oddio, chissà che pressioni ha fatto il governo, ma io credo non lo so, come non lo sa Santoro, perché Santoro ha detto una cosa, io non ho prove, ma penso che ha trasformato un suo teorema in una realtà, come in una notizia, come spesso ha fatto durante le sue trasmissioni, cioè partire da un teorema e far credere alla gente che sia una notizia provata. Detto questo, la cosa sembra molto semplice, cioè Santoro dovrebbe avere il coraggio di fare quello che hanno fatto Travaglio e Padellaro, cioè di mettersi in proprio, riscare i propri soldi, la propria liquidazione e fare l'uomo libero, indipendente solo da se stesso, perché è ovvio che nel momento in cui bussa ad altre porte, chiunque mette i soldi, perché è una regola che credo che esiste fin da quando è nata la moneta, chi mette i soldi ha un potere di comando. Poi ci sono dei padroni illuminati, dei padroni tiranni, dei padroni stupidi, ma anche il padrone più illuminato mette dei paletti, perché i soldi sono suoi e rischia lui. E allora fare finta che questo non esista o denunciarlo come se fosse una cosa brutta è un gioco da veramente da star di seconda fila. Mentana cosa dimostra? Mentana dimostra che si può essere dei professionisti seri e liberi pur stando dentro dei paletti che ovviamente Telecom impone. Telecom è il padrone della Sette, come imporrebbe qualsiasi padrone. Non è detto che stare dentro dei paletti si debba essere per forza dei servi, e Mentana lo sta dimostrando. Secondo me Vittorio Feltri l'ha sempre dimostrato. C'è il cellulare che però fa un po' le bizze in questo momento, magari lo recuperiamo anche dopo il traffico. Comunque il concetto è molto chiaro. Padellaro, perché Santoro e anche il Fatto ha fatto una serie di articoli su questo, ha insistito su questa linea, cioè c'è stato un intervento governativo per limitare la libertà di Santoro di poter esprimere la propria opinione sulla 7. Questa è stata la linea. Dobbiamo partire dall'origine della storia. L'origine della storia è che Santoro, che lo si può giudicare come si vuole politicamente, ma è un fuoriclasse, dirige, conduce da anni una trasmissione che si chiama Anno Zero, che ha ascolti da record, raccoglie pubblicità da record sulla Rete 2, e un giorno, dopo varie vicissitudini, un giorno consenziente Santoro, ma che non ne poteva più, un giorno viene accompagnato gentilmente alla porta. Da quel momento in poi, diciamo, si entra in una situazione un po' distorta, nel senso che già è distorta l'origine, ma insomma noi dobbiamo interrogarci sull'origine di un congedo che non ha, dal punto di vista imprenditoriale, non politico, non ha ragione al mondo. E la RAI ancora non ci ha spiegato perché ha rinunciato alla gallina dalle uova d'oro. Anche perché forse se la riprende, insomma, queste sono le ultime. Ma se la riprende, non lo so, poi questi sono giochini che non mi appassionano, non lo so questo. Io so soltanto che quella trasmissione non c'è più e difficilmente verrà ripristinata. Dopodiché c'è la comincia questa trattativa con la 7, che è una trattativa molto strana, perché e sembra che sia stata la 7 a offrire a Santoro, anzi noi lo abbiamo scritto perché abbiamo intervistato l'amministratore delegato della 7 Stella, il quale ha detto: mi piacerebbe avere Santoro, ma non solo, mi piacerebbe avere anche la Gabbanelli, Floris, sì, i macachi, i famosi macachi, sì, appunto, che cadono macachi dall'albero. Dopodiché Rai comincia questa trattativa, Santoro sostiene di aver accettato tutte le condizioni che venivano poste, anche quei paletti di cui parla Sallusti, che è giusto che ci siano dei paletti in aziende di quel tipo. Poi tutto si interrompe e noi scopriamo, ma sarà un caso che nella manovra, nella famosa manovra dove c'è un po' di tutto, no? C'era anche una norma che toglieva a Telecom, diciamo, la proprietà della rete. Cioè il concetto è, questa è una minaccia, insomma, esatto. O sarà un caso, una minaccia, come dire, attenta Telecom, perché noi siamo pronti a fare, esatto, questo. Si fermi qui però, che devo dare le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Io sono o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. bianco o nero? Allora, Mentano Santoro, voglio sentire Massimiliano da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Mica. Volevo dirle questo, innanzitutto io se devo scegliere scelgo Mentana, anche perché mi pare che la storia del direttore Mentana dica che lui ha scelto veramente, come dire, di andare via da Mediaset, dove mi pare stesse tutto sommato bene, ha scelto di risfidare se stesso in una televisione diversa. L'altra cosa è che mal sopporto chi giudica la libertà altrui, tu sei più libero o meno libero, mi sembra un discorso poco concludente. E il terzo elemento che chiedo anche ai suoi cortesi ospiti è se non ci sia in realtà un tema, diciamo, economico dietro, e quindi probabilmente una come dire, paura di non avere quegli ascolti, paura di non avere quel potere contrattuale. Quindi, ma da parte di chi? Santoro, di la Santoro. Di Santoro. E quindi, come dire, io vado in un'esperienza nuova e non è detto che gli 8 milioni di spettatori mi seguano. Beh, certo, non lo seguirebbero sulla 7, anche se è una diffusione, però insomma, non tanto numericamente quanto come share. Ma quindi cosa vuol dire? Cioè che Santoro aveva paura e quindi si è ritirato lui nella trattativa, questo mi sta dicendo? Sì, dico di sì, nel senso che a pensare male si fa peccato, però a volte dicevo qualcosa. È stato Santoro a far saltare tutto, va bene, però non credo che né Sallusti e Padelaro sappiano questa, possono dare una risposta a questo. Comunque grazie Massimiliano. Vorrei andare a Pio dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Allora, io sto dalla parte di Santoro chiaramente, in quanto la 7 mi ha deluso già prima che arrivasse Mentana si è spostata dalla canale 5, ha trovato un altro padrone, prima ne aveva uno, adesso ne ha un altro, che deve acquisire a chi è il padrone della rete. Sì, Santoro, sì, a mio avviso invece, è un uomo libero, da spirito libero, pensa e dice quello che giustamente deve essere detto e trasmesso, senza offendere nessuno. Al di là di questo, ho sempre capito, che Mentana lo conferma, l'ultima indiscrezione che arrivano dalla finanziaria, dove Berlusconi anche lì mette un suo paletto, suo personale, sì. Chi ha i soldi e ha la proprietà della rete comanda. Vabbè, chi è l'editore? Sì, si è capito, anche se la linea non era perfetta. Beh, ma quello che Pio mette come una critica è ciò che Sallusti invece dice, voglio dire, chi ha i soldi comanda. Insomma, ecco, fa così schifo questo concetto Sallusti, nel senso, poi bisogna capire come comanda. No, voglio dire, appunto, bisogna capire come comanda, ma non fa assolutamente schifo, è una però, una però l'esempio che faceva Pio, giusto per attualizzare anche sul tema su cui aprite tutti i giornali più o meno, no? La questione della manovra, di questa norma già definita ad aziendam spuntata nella manovra. Magari, come scrive oggi il direttore d'Avvenire, è una norma che potrebbe essere sensata, cioè far pagare nelle cause civili a un'azienda che perde quando si arriva al terzo grado di giudizio. E però che diamine, messa 5 giorni prima di un grado d'appello della sentenza Lodo Mondadori, insomma, viene un attimo un sospetto di una coincidenza un po' strana, no? Sallusti. No, è più che una coincidenza, direi. No, certo. È fatta apposta. Il legame, ma come dire, questo legame non annulla la legittimità e la bontà della norma. Del resto, prima di dare l'ergastolo a un'azienda, perché una sentenza di 750 milioni vuol dire un ergastolo, prima di dare un ragazzo all'azienda ci vogliono 3 gradi di giudizio, perché altrimenti è come se un pretore potesse condannare certo, a morte. Però lo scopriamo 3 giorni prima della sentenza d'appello Lodo Mondadori. Questo è la questione sulla quale si interrogano tutti. Non so, Padellaro, su questo che oggi titola Frodo Mondadori, è in linea di principio giusta l'idea di di condannare solo in terzo grado di giudizio? A me pareva una cosa, pare una cosa di buon senso, no? Come una sentenza penale si aspetta il terzo grado di giudizio, così la sentenza civile. Se avessimo dei tempi della giustizia civile umani, sarei d'accordo, a parte il fatto che appunto 5 giorni prima mi sembra veramente una marachella di quelle, ma anche sotto certi aspetti ridicola, ma tornando al punto, mettiamoci anche nei panni rispetto ai tempi della giustizia civile di chi ha diritto a un risarcimento, no? A un giusto risarcimento. Ma è giusto che colui che ha vinto la causa debba aspettare anni prima di vedersi riconosciuta quella somma? Mettiamoci pure nei panni degli altri, perché altrimenti, visto che parliamo di giustizia, la giustizia vale per tutti e due, vale per il perdente, per il soccombente della causa, che comunque è soccombente, e vale per chi ha vinto la causa. Allora non capisco perché chi ha vinto la causa debba essere danneggiato. Che però si dice le cause si vincono in 3 gradi di giudizio, però effettivamente questa cosa vedremo poi se il Quirinale la firmerà oppure no. Senta Padellaro, sul tema libertà, ma lei si sente più libero adesso? Si sente libero come quando dirigeva l'Unità, per esempio? Guardi, io l'ho anche scritto e detto, io ho diretto l'Unità, che è un grande giornale, anzi approfitto per fare gli auguri al nuovo direttore Claudio Sato, che comincia proprio oggi. Però era un giornale che aveva 2 vincoli forti. Il primo era l'area politica, che era quella del Partito Democratico. Il secondo era il finanziamento pubblico veicolato dal Partito Democratico. Quindi era evidente che non era possibile affrontare certi temi con la nettezza con la quale li affrontiamo adesso. Per esempio, noi abbiamo affrontato ultimamente il tema della questione morale della sinistra, del Partito Democratico. Sull'Unità era un po' più dura. L'Unità sarebbe stato un pochino più complicato, l'abbiamo fatto. Guardi che sull'Unità da me diretta, da Furio Colombo, scriveva anche Marco Travaglio. Non le dico i mal di pancia dei dirigenti del Partito Democratico ogni volta che Marco si occupava dei loro problemini. Quindi certo c'è una bella differenza e oggi. Sallusti, lei lo prenderebbe Travaglio? No. Magari dopo aver affrontato un paio di pranzi nel quale vi chiarite un paio di cose. No, io lo prenderei anche Travaglio, non credo che Travaglio venga al giornale, ma non è una battuta, così come altre intelligenze che stimo, che non so, Massimo Fini è un'altra persona con la quale mi piacerebbe lavorare, ma perché essendo uomini liberi scelgono dove allocare la propria libertà, e anche quella è una libertà, ma la mia libertà di allocare la mia libertà dentro il giornale non vedo perché non debba essere rispettata. Ma chi le scrive sempre lei è un servo del potere, un servo del padrone, perché lavorare per l'editore che è imparentato col presidente del consiglio dà la patente di servo per molti in Italia? Questo è l'arroganza culturale della sinistra, per cui chi non lavora per loro è necessariamente un servo. Il servo non è uno stato contrattuale, servo è uno stato dell'anima, uno stato personale. Uno può essere servo anche se non è pagato da nessuno. È veramente uno stereotipo molto volgare e molto arrogante. Vi ringrazio e vi saluto. Antonio Padellaro, direttore del Fatto, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, così come in redazione Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e il nostro Roberto Scaltritti in regia. Che dire, la linea va come sempre a quest'ora Oscar Giannino. Noi ci troviamo domani alle 7:20.